Pandora, miti di ieri e di oggi narrati da Maurizio Bettini, a cura di Giorgia Niso e Lucia Rosei. Buongiorno a tutti e bentrovati da Lucia Rosei. Si apre una nuova settimana e una nuova puntata del ciclo di Maurizio Bettini dedicato ai miti di ieri e di oggi. Ciclo che ormai sta volgendo al termine. Argomento di questa 11ª puntata sono le immagini. Chi è che ha inventato le immagini? È una strana domanda, una domanda che si può porre solo nel territorio del mito, perché è ovvio che nel territorio della storia una domanda del genere non avrebbe senso. Tutte le popolazioni, a partire da un certo momento che è impossibile identificare con esattezza, hanno cominciato a fare immagini o qualcosa di simile alle immagini. Ma nel territorio del mito, ripeto, in questo mondo in cui domande e risposte non funzionano come negli altri mondi, questa domanda si può porre. E Plinio il Vecchio, citando, raccontando un mito greco, ci dà la risposta. Dunque, sembra che il primo a fare immagini fosse stato un vasaio di Corinto. Questo vasaio di Corinto si chiamava Butade e aveva una figlia. Il fatto che avesse una figlia è una cosa molto rilevante nella vicenda. Dunque, che cosa era accaduto? Era accaduto che la figlia si era innamorata di un ragazzo e questo ragazzo a un certo punto però aveva deciso di andarsene, di abbandonarla. Il padre Butade non era di quei padri gelosi, perché in generale si pensa che i padri, e forse è anche vero, siano un po' gelosi delle loro figlie, insomma, almeno per i primi tempi non è che vedano tanto di buon occhio i fidanzati, gli amori di queste ragazze, ma invece no, Butade era un padre talmente affezionato alla figlia che fu profondamente colpito dal dolore che la ragazza provava per questo abbandono. Allora, durante la notte, mentre il ragazzo dormiva, il padre si avvicinò, Butade, il vasaio, si avvicinò al letto e con una lucerna proiettò sul muro l'ombra di questo ragazzo. Dopodiché, mentre l'ombra risiedeva effimera su quel muro, con un carboncino tracciò la silhouette dell'ombra del ragazzo e se ne andò. Il giorno dopo poi il ragazzo partì e Butade, servendosi di questa silhouette, ricostruì con nei confronti del desiderio, noi l'abbiamo da un altro mito ugualmente malinconico. Beh, è interessante questo, sembra che le immagini si leghino di preferenza a miti dove sta della malinconia e talora della tragedia. Il mito in questione è quello di Protesilao e Laodamia. Protesilao era un giovane guerriero greco il quale non aveva colto una profezia, non aveva colto un oracolo. Un oracolo, infatti, aveva detto che quando i greci fossero partiti per la loro spedizione verso Troia, il primo guerriero che avesse posato il suo piede sul territorio troiano sarebbe morto. Fu Protesilao, che era il marito di Laodamia, una giovane bellissima fanciulla che aveva sposato subito prima di partire, fu Protesilao a porre il piede per primo sul territorio troiano e venne ucciso, secondo l'oracolo. Su questo mito del primo che tocca il litorale, no? Che è un mito che poi, come dire, è centrato su un tema che altre volte si incontra nei racconti mitici o nei racconti di folklore, la prima persona che incontrerai dovrai fare questo e questo, eccetera. No, quindi il primo che posa il piede sul territorio troiano. Intorno a questo mito si costruirono anche delle varianti curiose, addirittura si raccontava che il padre di Protesilao avesse messo accanto a lui quello che i greci chiamavano un omnemon, un ricordatore, cioè uno schiavo che aveva il compito di ricordargli non mettere per primo il piede sul lido di Troia, cioè che gli avesse il compito di ricordargli l'oracolo. Però che cosa accadde? Che questo mnemon per qualche motivo si dimenticò di farlo e quindi questa mancanza, questa défaillance di memoria procurò a Protesilao la morte. La moglie, la giovane moglie, Laodamia, era inconsolabile. Era talmente inconsolabile che gli dei ebbero pietà di lei e Hermes, che era il dio che faceva un po' la spola tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, quello che i greci chiamavano psicopompos, cioè colui che spinge le anime verso, accompagna le anime verso l'Ade. Dunque Hermes fu incaricato di riportare a Laodamia l'ombra del defunto, l'ombra stavolta nel senso che i greci davano alla parola psiche, che traduciamo a volte anche con anima, in realtà è come quel soffio vitale della persona che poi all'Ade diventa una sorta di vaga e evanescente ombra. Allora gli riporta sulla psiche dell'amato, stanno insieme per un po', Protesilao e Laodamia, poi però Protesilao deve tornare nel regno dei morti perché quella è una legge che nessuno può trasgredire. Non si torna dall'Ade. Difficilmente ci si esce, ma comunque chi riesce a farlo poi in genere è condannato a ritornare giù. E anche Protesilao torna giù e Laodamia muore. Un'altra versione del mito, perché i miti parlano attraverso le loro versioni, no? Ci danno, come dire, chi crea nuove storie vuole dire anche nuove cose, vuole porre la vicenda in modo diverso per comunicare messaggi diversi. Un'altra versione di questo mito di Protesilao e Laodamia dice invece che l'inconsolabile Laodamia si fece fare, beh, adesso state già sicuramente indovinando, una statua del defunto marito. E questa statua lei se la teneva nel letto, la curava, la coccolava come se fosse a pieno titolo Protesilao. È di nuovo un'immagine che è prodotta dal desiderium, dal pozzos, cioè questo rimpianto incolmabile per un amato, una persona amata che non c'è più e che l'immagine a questo punto interviene per colmare. Ma il padre di Laodamia non era mica buono come Butade, questo è il problema. Anzi, era un padre severo, era un padre anche piuttosto stupido. Infatti, uno schiavo vide Laodamia che aveva qualcuno, qualcosa dentro il letto che trattava alla maniera di un compagno e pensò che fosse un adultero. La denunziò al padre. Il padre irruppe nella stanza, trovò la statua nel letto, capì che non si trattava di un tradimento, ma come di un tradimento della memoria di Protesilao, ma al contrario si trattava di un eccesso di amore, di un eccesso di attaccamento verso questo giovane marito defunto e pensò che tutto questo dovesse fare solo male alla figlia. Prese la statua, la fece bruciare e però Laodamia si uccise, si gettò fra le fiamme in cui ardeva l'immagine del suo Protesilao. Thank you. queste vicende di statue che rimpiazzano un amato o un'amata, di cui abbiamo visto un po' la genesi, il movimento, il meccanismo, il rapporto con l'ombra, il rapporto col pozzos, col desiderio, continuano. Ce ne sono molte nella tradizione greca. Qualcuno ci ha anche riflettuto sopra. Seneca, per esempio, diceva: le immagini delle persone care sono una forma di solacium, di conforto, proprio per sottolineare la capacità non solo evocativa, ma veramente pratica, pragmatica di queste immagini che servono a confortare qualcuno. Plinio diceva: a tal punto c'è desiderio di immagini che questa stessa forza ha prodotto anche le immagini di persone che non si sono mai viste o che pure non sono mai esistite, come le immagini dei grandi poeti, come Omero, che non sono vere e proprie immagini, non ritraggono qualcuno, ma tale è il desiderio di colmare il desiderio, appunto, che, dice Plinio, se ne producano anche quando queste persone non ci sono note, non le si conoscono. Terza tappa di questo viaggio nelle immagini del desiderium, del pozzos, non può che essere la giovane Alcesti. Sono tre storie di donne, vedete, di giovani donne che sono giovani donne sofferenti, giovani donne innamorate, e giovani donne, come vediamo in questo caso, estremamente generose anche, soprattutto Alcesti è il paradigma di questa generosità. Che cosa era accaduto? Alcesti era divenuta da poco la moglie del re Admeto, il giovane re della città di Fere in Tessaglia. Il matrimonio era stato anche un po' avventuroso, perché in realtà il padre di Alcesti non voleva concedere la figlia e quindi l'aveva sottoposto i pretendenti a una prova, ma Admeto era stato aiutato da Apollo ed era riuscito a soddisfare il requisito. Il requisito era poi di aggiogare due animali selvaggi a un carro, insomma una prova abbastanza complessa. Apollo era molto affezionato ad Admeto, perché Admeto era stato molto gentile, molto cortese con lui quando, condannato da Zeus, Apollo era stato costretto a scendere sulla terra e a diventare suo servitore. Ma Admeto era stato particolarmente generoso con questa singolare posizione del dio Apollo, Apollo servo, e quindi Apollo voleva ricompensarlo. E la ricompensa che Apollo dette ad Admeto, oltre ad aiutarlo a sposare Alcesti, fu questa: la possibilità, il diritto, diciamo, di potersi far sostituire al momento della morte. Cioè, è un privilegio raro che non tocca a molti. Al momento in cui fosse intervenuta la morte, Admeto aveva la possibilità di cercare qualcuno che, però in maniera, come dire, generosa, in maniera spontanea, si sostituisse a lui. Venne il momento della morte e venne presto, venne subito dopo il matrimonio con Alcesti. Admeto cominciò a chiedere allora in giro al padre, alla madre, agli amici, se c'era qualcuno disponibile a morire al posto suo, perché lui aveva questo privilegio da parte di Apollo. Ma con sua grande, come dire, sconcerto e delusione, nessuno accettò di sostituirsi a lui nella morte, neanche il padre, neanche la madre. Anzi, questi sostennero che semmai era lui che avrebbe dovuto restituire ai genitori il bene che aveva ricevuto, cioè il nutrimento che aveva ricevuto. A questo punto chi si fece avanti? Alcesti. Alcesti disse: non potrei vivere senza di te e sono io disposto a morire al posto tuo. Pensa ai tuoi figli, ai miei figli, pensa a te, abbi una bella vita, io morirò per te. È una scena estremamente commovente che Euripide nella tragedia Alcesti ci mette di fronte. Qual è la risposta di Admeto? Admeto chiaramente è in una posizione che non può che oscillare fra il sollievo di chi sfugge alla morte e l'estremo dolore nel vedere che chi ci fa sfuggire alla morte è la persona più cara che abbiamo e che morirà al posto nostro. È un dono, come spesso i doni degli dèi, è un dono terribile che Admeto ha ricevuto in realtà. È un dono contraddittorio, un dono che dilemmatico, che strazia il cuore. E come reagisce? dice: io non troverò mai un'altra donna, nessuna donna di Tessaglia prenderà mai il posto tuo, io curerò i miei figli e mi basteranno, e soprattutto io metterò nel mio letto una statua che in tutto e per tutto mi ricordi le tue fattezze, e questo mi basterà, questo mi basterà. Di nuovo un'altra statua che nasce dal pozos, dal rimpianto, dal desiderio, per il sollievo degli ascoltatori che hanno sentito tre storie tristi. Sappiamo che questa invece ebbe lieto fine. Perché? Perché venne alla reggia Eracle, il quale fu informato del lutto in cui era piombato Admeto, era piombata tutta la reggia, discese agli inferi, riuscì a forzarne la porta, Eracle è il più grande eroe di tutti i greci, trascinò fuori Alcesti, la restituì al marito. E per una volta, diciamo, la statua non fu il simbolo vuoto, duro, arido del desiderio, ma fu un mediatore che ebbe la capacità di riportare un morto fra i vivi. Mi turbò, Era l'aria Grandier du Destin qui m'accable, l'aria di Alceste, dal primo atto dell'Alceste di Gluck. Anne-Sophie von Otter, il Monteverdi Choir, l'English Baroque Soloists erano diretti da John Eliot Gardiner ed era proprio l'invocazione di Alceste agli dei dell'oltretomba affinché lasciassero vivere Admeto. E ancora sulla scia della narrazione che abbiamo appena ascoltato e su quella che è stato il culto dell'immagine che deriva dall'ombra, l'ombra mediatore tra la persona viva e la sua immagine, l'ombra come vera e propria parte della persona che la proietta, ecco una partitura che ne ricalca il senso, di Frau ohne Schatten, la donna senza ombra, opera in tre atti di Richard Strauss con libretto del poeta Hugo von Hofmannsthal. La storia è proprio quella di una principessa che desidera acquistare l'ombra, cioè desidera acquistare la natura umana ed essere quindi capace di generare figli. Ascoltiamo come la principessa implora alla nutrice di aiutarla per ottenere un'ombra. Thank you. Erano le voci di Cyril Studer e di Anna Schwarz nella Donna senz'ombra di Richard Strauss, edizione diretta da Wolfgang Zavallisch. E con questo brano termina anche l'11ª puntata del ciclo Pandora, miti di ieri e di oggi di Maurizio Bettini. Appuntamento a domani, sempre alle ore 13 su Radio 3. Un saluto da Lucia Rosei. Avete ascoltato Pandora, miti di ieri e di oggi, con Maurizio Bettini, a cura di Giorgia Niso e Lucia Rosei. Per riascoltare e scaricare la puntata, pandora.rai.it. Come avete potuto ascoltare, per un disguido tecnico, la puntata è andata in onda incompleta. La replicheremo naturalmente completa a breve, ma intanto la potrete ascoltare appunto in podcast. E comunque, a chiusura di questa puntata, eccovi un brano musicale come suggello, come naturalmente come chiusura finale. Dalla Medea in Corinto di Simon Mayr, ascoltiamo l'aria Caro Albergo, l'aria di Creusa, dal secondo atto dell'opera. Thank you. accendi